In particolare per quanto riguarda la stretta attualità, mi atterrei, ripeto, alla stretta attualità perché veramente sarebbe molto lungo analizzare il rapporto con i mezzi di informazione durante gli ultimi 10 anni, perché molte volte sono stati inquinati proprio da quel ricatto ambiente salute che i Riva, proprietari dell'Ilva, hanno perpetrato. All'attualità posso dire che non ci sono verità taciute dai mezzi di informazione, in particolare in merito ai livelli di inquinamento che vengono misurati dall'ARPA Puglia, che è un ente pubblico presente in qualsiasi regione e che è preposto proprio alla misurazione dei vari inquinanti presenti nell'aria e i cui dati vengono pubblicati periodicamente e sono quelli i dati di riferimento. Qualsiasi altro dato di altre fonti, proveniente da altre fonti, non ritengo sia attendibile. Ci sono tuttavia attualmente degli aspetti della vicenda Ilva che non vengono considerati nell'attuale dibattito e di cui dirò in seguito. A disorientare l'opinione pubblica nazionale e cittadina è il carattere ideologico del dibattito intorno a questo tema, intorno a questo quesito principe. Chiudere o no lo stabilimento atteso che inquina e provoca malattie invalidanti e mortali, ovvero c'è chi ritiene a prioristicamente che non si possa coniugare industria e ambiente e c'è chi sostiene le ragioni dell'industria a prescindere, senza contare la confusione generata da ipotesi fantasiose come quella avanzata da Beppe Grillo di farne un Luna Park. Ecco, questo è allo stato delle cose il rapporto, ripeto, tra mezzi di informazione e vicenda Ilva. Ha citato adesso la proposta di Grillo che lei ha definito fantasiosa e io gliene cito un'altra, quella fatta alcune settimane fa dal Movimento 5 Stelle di una chiusura programmata. Secondo lei è una soluzione praticabile o quale sarebbe secondo lei la soluzione, diciamo, più auspicabile? Programmata è impossibile. Allora, io ritengo che l'unica soluzione realisticamente praticabile sia quella intrapresa dal precedente governo e per la verità molto ben condotta dall'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che è la vendita e l'ambientalizzazione. Il maggior produttore di acciaio al mondo, il gruppo indiano ArcelorMittal, vuole acquistare lo stabilimento ponendo nel contratto 4 miliardi di euro per l'ambientalizzazione degli impianti. Sarebbe una buona soluzione. Rimarrebbero però aperte due questioni. Una immediata: il gruppo acquirente vorrebbe una riduzione del personale di 4.000 unità. Sarebbe un tributo pesantissimo da pagare, inaccettabile. E ci vorrebbe un ministro del lavoro dotato di ben altra esperienza e caratura culturale rispetto al ministro del lavoro 5 Stelle Luigi Di Maio, che non ha uno straccio di laurea e non ha mai lavorato. L'altro problema, una volta che la vendita fosse condotta in porto, sarebbe quello dell'attuazione del controllo dell'adempimento alle clausole contrattuali tese all'ambientalizzazione degli impianti da parte dell'acquirente. Ovviamente, poiché in questo momento lo stabilimento Ilva è commissariato e è praticamente di proprietà dello Stato, dovrebbe essere lo Stato in primo luogo a controllare che quei 4 miliardi per ora sulla carta vengano spesi per l'ambientalizzazione, congiuntamente agli enti locali e ovviamente al sindacato e all'ARPA, che è l'ente preposto al controllo. Per quanto riguarda l'ipotesi di chiusura dello stabilimento Ilva, dal punto di vista cioè proprio realistico e impraticabile, in qualsiasi modo anche la chiusura programmata, perché pone tali questioni, in primissimo luogo occupazionali e anche dal punto di vista ambientale. Ad esempio, la chiusura dello stabilimento programmata o meno pone dei problemi di inquinamento notevolissimi, perché lo stabilimento chiuso, inattivo in tutto o in parte, e nella parte inattiva inquinato, perché lo stabilimento è inquinato, è un sito a ridosso della città che sarebbe ancora una formidabile fonte di inquinamento. Non solo, ma supponendo di smantellare in tutto o in parte, nell'ipotesi di una chiusura programmata, gli impianti, si presenterebbe il problema ambientale dello stoccaggio di questa enorme quantità di materiale che risulta fortemente inquinato. Dove stoccarlo? Come stoccarlo? Senza contare che poi dal punto di vista occupazionale, l'ipotesi avanzata dal Movimento 5 Stelle è quello della riconversione degli attuali operai per fargli effettuare le bonifiche, ma la questione non è così semplice, perché formare un operaio poco specializzato è possibile, ma riformare ad altri compiti un operaio di forte specializzazione, senza contare gli ingegneri e i quadri intermedi oggi impiegati in Ilva, ad altre funzioni, è come doversi riprendere un'altra laurea, e questo pone dei problemi di una grandissima enormità. Infine c'è una questione, e tutte queste, come vedi, sono questioni sottaciute nell'attuale dibattito. E poi ce n'è un'altra, derimente la questione, ed è la portualità. Noi abbiamo un porto che potrebbe essere fonte di sviluppo integrativo a quello industriale, che però non parte. Tuttavia le sue potenzialità rimangono intatte. Ora, i grandi porti del nord Europa, ma i porti anche italiani come Genova e Trieste, si reggono su tre grandi apporti: il traffico turistico, il traffico commerciale, il traffico industriale. Bene, noi traffico turistico non ne abbiamo ancora, se non in modo assolutamente sporadico. Traffico commerciale ne abbiamo poco. Il porto di Taranto oggi si regge quasi esclusivamente sul traffico industriale, cioè sugli approvvigionamenti Ilva ed Eni. Se questa gamba anche dovesse venire a mancare, significherebbe che il porto di Taranto non partirà mai più. Quindi decreterebbe la fine dell'attività portuale. Sì, perché è del tutto evidente che le potenzialità del porto sono, ripeto, ancorate a questo tipo di traffico. Tutti Liverpool, Amsterdam, Rotterdam, Sireggo, sono tutti porti industriali, perché hanno tutti il loro stabilimento siderurgico e il loro petrolchimico, e si reggono su questo, ma anche sul traffico commerciale e anche sul traffico turistico. Un porto, per essere florido e produrre ricchezza e lavoro, ha bisogno di questi tre apporti. A Taranto, ripeto, se gli si toglie anche l'ultimo sul quale si regge, sarebbe la fine. Le faccio un'ultima domanda sul lato più civile e più afferente alla cittadinanza tarantina. Lei prima ha citato il conflitto, o anzi il ricatto, tra lavoro e salute imposto da Riva, e questo sembra aver causato un conflitto all'interno della cittadinanza stessa. L'abbiamo visto con le proteste del Comitato Liberi e Pensanti per la chiusura, in quel caso, dell'Ilva, e poi d'altra parte abbiamo visto le manifestazioni sindacali, appunto, dei lavoratori che invece protestavano affinché non chiudesse. Come è trattato dalla politica a livello nazionale e locale questo conflitto all'interno della cittadinanza? Se è trattato? In effetti questo conflitto, il ricatto occupazionale è stato perpetrato dalla famiglia Riva, perché in effetti oggi questa questione sostanzialmente non c'è più, nel senso che la famiglia Riva, circa 20 anni fa, quando ha acquisito lo stabilimento siderurgico Italsider ad un prezzo favorevole, con l'impegno contrattuale di provvedere all'ammodernamento degli impianti e alla loro ambientalizzazione, primo, non vi ha provveduto, e per fare profitto ha spremuto come un limone i vecchi impianti e gli operai. Quindi i Riva hanno prodotto molto, guadagnato molto, inquinato molto, ben oltre i limiti delle normative europee e nazionali. Ora, lo Stato non è intervenuto nel far rispettare le clausole contrattuali della vendita ai Riva, che prevedevano l'ambientalizzazione. Le amministrazioni locali, comune e province, sono stati inerti. Per la verità, molto debole è stato anche il sindacato. E Riva ha potuto attuare questo vile ricatto. Per cui ovviamente una lacerazione sociale importante c'è stata nella città, tra chi, vedendo il proprio posto di lavoro messo in discussione, riteneva di poter assumere il rischio della malattia, e tra chi, essendo fuori ovviamente dall'Ilva, vede soltanto il rischio della malattia e quindi pensava a una chiusura dell'Ilva, fermo restando il fatto che la chiusura dell'Ilva pone tutta quella serie di problemi che ho prima citato. Ma adesso, dopo l'intervento della magistratura, perché ovviamente la magistratura, come era suo dovere istituzionale fare, si è trovata dinanzi a un reato ambientale commesso dai Riva, ha sequestrato gli impianti, è intervenuto lo Stato. Oggi praticamente lo Stato ha espropriato ai Riva lo stabilimento, e oggi il nodo cruciale della vicenda, ritorniamo, è mantenere in vita lo stabilimento ambientalizzandolo e tentare di coniugare ambiente e industria, o chiuderlo senz'altro. Questo è il nuovo nodo cruciale, e intorno a questo, per la verità, ecco, intorno a questo non bisognerebbe dividersi. Ma la cittadinanza, le forze sociali, le forze politiche dovrebbero stimolare un dibattito realistico, perché di tutto questo realisticamente, ecco, la cittadinanza dovrebbe essere protagonista nel far sapere le proprie conclusioni. Ma intorno a questo, perché questo è il nuovo punto cruciale, ambientalizzazione, tentare l'ambientalizzazione tramite la vendita all'ArcelorMittal con il controllo successivo, eccetera, o chiudere lo stabilimento?